nonostante sia stato prodotto nel 1953, Come sposare un milionario, del regista americano di origini romene Ian Negulesco. Come sposare un milionario è un remake, in fin dei conti, di un film di Lowell Sherman del 1932. Vi si racconta la storia di tre ragazze, tre modelle, decise ad accalappiare, come si metaforizzava un tempo nel gergo maschilista, decise ad accalappiare milionari pronti a condurle all'altare. Nella versione di Negulesco le tre ragazze erano interpretate una da Marilyn Monroe, una da Lauren Bacall e l'altra da Betty Grable. Alla Monroe toccò la parte di una miope renitente a dichiararsi tale, ovviamente portando gli occhiali, e da lì scaturiscono, proprio da questa sua renitenza a portare gli occhiali, da lì scaturiscono alcune situazioni che, pur prevedibili nei canoni della commedia dell'epoca, avrebbero dovuto costituire altrettanti momenti divertenti per lo spettatore. È rimasta celebre la sequenza in cui lei, la Monroe, viaggia in aereo e, cercando di assumere un'aria intellettuale, tiene un libro aperto innanzi a sé. Libro che è disgraziatamente rovesciato. Alessandro Zaccuri, in un libro ben scritto, ricco e approfondito sui metaboliti cinematografici della letteratura, un libro che si chiama Citazioni pericolose, che è uscito abbastanza recentemente da Fazzi, Zaccuri ricorda l'esempio del libro a rovescio della Monroe per sostenere che nella storia del cinema in genere, e non soltanto nella storia del cinema americano, per lo più il libro svolge una funzione rassicurante, in quanto rappresenta quasi sempre qualcosa di solido e rispettabile. Una persona con un libro in mano dice, una persona con un libro in mano, insomma, alimenta un pregiudizio positivo su se stessa, o in altre parole è impegnata, diciamo, in un processo di autovalorizzazione. Titolo, autore, editore, formato, prezzo e altro paratesto, ovviamente, aggiungo io, dipendono dal contesto. Per una gita domenicale con gli amici della Bocciofila è presumibile che non serva poi molto l'ultima edizione del quadruplice principio di ragion sufficiente di Schopenhauer. Diciamo che può bastare i gelsomini del plenilunio di Liala. Noi tutti dal punto di vista semiologico siamo come merce in vetrina con il cartellino del prezzo bene in vista, no? Sbagliare grossolanamente il prezzo, fissarlo troppo alto o troppo basso, può significare la rinuncia al cliente eventuale. La possanza ideologica del libro in mano mi ha rammentato un principio di sopravvivenza adottato a suo tempo da un amico mio quando era impiegato in una grande azienda dello Stato. Come chiunque è condannato a lunghe ore di ufficio, anche lui aveva il problema di sgattaiolare fuori ogni tanto, no? E vabbè, fatta la pausa per il caffè, fatto il salto in bagno, diciamo che non gli rimanessero altri pretesti validi a disposizione. Adottò quindi la soluzione di munirsi di un foglio o due dattiloscritti o anche scritti a mano, e con i fogli andarsene allora liberamente a spasso per i corridoi. Bastava assumere un passo deciso, appena un po' più veloce ogni qualvolta incrociava qualcuno. Con fogli comunque, non con una cartelletta, perché la cartelletta, mi spiegava lui, poteva dare l'idea di un lavoro conchiuso, di qualcosa da cui ci si è già distaccati. Il foglio volante, una lettera per esempio, ecco, su una lettera su cui contenuto è interrogabile chiunque, beh, una lettera costituiva a suo parere la soluzione migliore, perché dava l'idea di qualcosa di incompiuto ma lì lì per compiersi, soprattutto testimoniava coinvolgimento diretto. Un foglio di carta portato in mano è presumibilmente destinato a un tragitto breve, breve come l'assenza di chi lo porta dal suo ufficio, ha bisogno di curatela attenta e scrupolosa, e all'occorrenza, beh, poi si ripiega in quattro e sparisce in fretta in una tasca qualsiasi. Chi viaggia per un corridoio con un foglio in mano è giustificato di per sé e non è neppure disturbabile. È intento ad un compito e come tale esige il rispetto universale. Il foglio in mano poi, a differenza del libro della Monroe, non ha un diritto ed un rovescio da rispettare, non ha un titolo ben visibile né altri caratteri che contrassegnino in qualche maniera il portatore, garantisce l'anonimato ideologico, ma proprio in quanto tale non serve per affrontare le interazioni di lunga durata, serve per i corridoi e non per le sale d'aspetto, non per per i rapidi spostamenti e non per i lunghi viaggi. Che il libro si sia guadagnato nel tempo della nostra storia uno statuto molto onorevole è deducibile dal fatto che nel dizionario Bompiani delle opere figurano ben 144 libri nel cui titolo la parola libro è situata per prima, a cominciare dal libro aureo della virtù di Friedrich Spee al libro sul secondo battesimo, noto anche come i Ciprianei apocrifi. Quando il fascismo ha cercato qualcosa che potesse accompagnarsi al moschetto per sventolare un emblema convincente della sua cultura, lo ha trovato nel libro. E sul libro si stagliavano la falce e il martello del vecchio Partito Socialista. Tanto prestigio è spesso mal riposto. Sì, se dovessimo giudicare da quanto molti libri contengono in argomenti e in pretese, in protervia, in truffaldinità, saremmo indotti a pensare che fra i tanti lettori, quella stessa Marilyn Monroe che per senso di inferiorità culturale forse finirà con lo sposare Arthur Miller, è forse l'unica a sapere come prenderli questi libri. Zaccuri fa anche alcune considerazioni su In e Out, un film del 1997 diretto da Frank Oz, che, se non vado errato, conclude la propria vicenda di ruoli sociali e ruoli sessuali durante una festa scolastica in una palestra. In una palestra si è svolta anche la festa cui ho partecipato io ieri in un liceo cittadino. Rispetto alla finzione di stampo americano emergevano alcune differenze. Pochissimi genitori, pochissimi professori, in pratica davvero interessato nessuno. L'autorità in sala era costituita da un tizio in giacca e cravatta impermeabile alla musica, che si aggirava con meticolosità semplicemente per imporre lo spegnimento delle sigarette. La musica, sì, d'accordo, la musica era troppo forte, dannosa per le orecchie e per l'orecchio, vabbè. Ma i gruppi sul palco erano davvero bravi e qua e là regalavano momenti di grande professionalità e perfino qualche felicissimo spunto creativo. pochi ragazzi si lasciavano andare al ballo, qualcuno accennava qualcosina di malagrazia, ma per lo più stazionavano aggregati innanzi al palco o lungo le pareti della palestra, accovacciati. Pochissimi quelli rapiti dall'ascolto e coinvolti totalmente nella situazione proposta dallo spettacolo. La maggior parte entrava e usciva in pellegrinaggi transazionali, dalla palestra al cortile, dal cortile ai lunghi corridoi, che prima o poi li avrebbero ricondotti alla palestra medesima. Libri in mano non ne teneva nessuno. Ecco un contesto in cui il libro non valorizza di certo il portatore. E invece molti i contatti fisici fra loro, spesso organizzati in tenerissimi metaforici spidocchiamenti reciproci. E rispetto alla festa da palestra americana mancavano poi gli addobbi colorati. E coerentemente i ragazzi avevano scelto una galleria di fotocopie in bianco e nero, con i loro volti ravvicinati all'obiettivo. Poca la luce, nessuna artificiosa. Non c'è la ritualità dello spettacolo televisivamente intesa e non hanno interlocutori. C'è però una collettività protagonista in movimento. Stiamo a vedere che direzione prendono. Sì, ma con l'affettuosa fiducia di chi ripone nel prossimo l'ultima propria speranza. Un homme que je connaissais pas est tombé, je ne sais pas pourquoi. C'était un coup d'épaule de trop. Il est tombé dans l'eau du pont du carrousel. Qui était réservé au Marcel ce jour-là.